Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È la puntata di mezzo. È il volume numero 3 dei 5 che ci sono a disposizione ogni settimana, che poi potete raccogliere e mettere sul vostro scaffale digitale grazie al podcasting. E Giulio Caperdoni insieme a voi per un'ora, anche quest'oggi, fra le 19 e le 20, che vi ricorda sia l'esistenza della lista nera, giulio@radiorockfm.com, il modo per iscriversi, che anche dello spazio su internet al di là del sito www.radiorockfm.com, il nostro spazio su internet, myspace.com/eclettica. Ed ora andiamo ad incominciare. Folco. Forse perché avevi sempre la mamma. Tiziano. È vero. Questa è la cosa più giusta che hai detto, perché lei era tutto. Primo, costituiva una certezza attorno alla quale tutto girava, una certezza di libertà e un senso di sicurezza. È stata quello che il grande poeta bengalese, che cito sempre, è riuscito così bene a descrivere: il palo al quale l'elefante si fa legare con un filo di seta. Se l'elefante dà uno strattone, può scappare quando vuole, ma non lo tira. Ha scelto di essere legato con un filo di seta a quel palo. Questa scelta l'ho fatta che ero giovanissimo, avevo 18 anni, e questa scelta è stato il grande, grande punto fermo della mia vita. Non l'ho mai messa in dubbio, pensa, mai. Sì, passa un bel culo e ti giri a guardarlo, e poi perdi tempo con tutte quelle bischerate. Mamma mia, che peso il sesso! Ho perso tanto tempo nella vita a tenere sotto controllo questa bestia, con tutti i complessi di colpa, la moralità. Per cui alla fine basta, basta, basta! Ma lei era il metro dei metri di Parigi, e quando parti con qualcosa così, sai, porca miseria, che tesoro. Questo era ancora La fine e il mio inizio, di Tiziano Terzani. Cut, print, kill the pig. What? You can't kill him if he's wearing people clothes! Thank you. dovessi stilare una classifica di qual è il brano che nelle ultime settimane più ha attirato l'attenzione, quello di cui più si parla nei mail che io ricevo, ma non solo nei mail, mi capita anche di parlarne con persone che incontro e che ascoltano Eclettica, è proprio Sweet Love for Planet Earth dei Fuck Buttons che ci siamo appena ascoltati. Trasmissione quella di quest'oggi che si era invece aperta con Northwest Girls da parte dei Say Hi. E dopo un brano così lungo come quello dei Fuck Buttons, un brano brevissimo, 1 minuto e 30 secondi, più o meno, questa è la sua durata, per un gruppo californiano il cui nome è Sick Alps, il quale nel settembre 2007, io però ne sono venuto in possesso solo nei giorni scorsi, è uscito con un 12 pollici solo in vinile, dal quale vado ad estrarre il pezzo intitolato Bells with Tremolo and Distortion. Folco. Perciò in verità non eri mai solo. Tiziano. No. La mamma è stata per me una grande compagna, compagna proprio di viaggio, una grande amica, consigliera, partner di tutto. Non ti puoi immaginare, Folco, le ore, ore, ore, le giornate, i mesi, se metti tutto assieme, che tua madre e io abbiamo passato a chiacchierare a letto prima di addormentarci, a chiacchierare di voi figli, dei problemi, del mondo, della vita. E poi le colazioni interminabili a parlare sulla terrazza di casa per fare il piano della giornata. Non il piano, allora tu oggi vai dal parrucchiere, compri la carne, eccetera. Ma questo fare il piano di come noi, come due, ma uno in verità, affrontavamo il tempo. Questo l'abbiamo sempre fatto. Era come una forma di meditazione. Sai, è bello, non siamo mai vissuti di corsa, vabbè. C'erano giorni in cui dovevo scrivere il pezzo, ma abbiamo sempre avuto il tempo di fare questo piano. Abbiamo sempre avuto tempo per il tempo. Questo era ancora la fine e il mio inizio, di Tiziano Terzani. It's on Pascal's wager we send Sergeant Major to fight. It would be nice if we took his triangle and we could find new angles more violent and wonderful. I was thinking of saving the animals, but first we save people, not animals, just 'cause they're almost as rare as love through marriage. Do you sometimes wish that your siblings were miscarried? And people made evil. We decide what it is and decide what it's not. If you do things illegal, you can be pretty sure that it would be allowed somewhere else. But we're happy people, so there's nothing wrong with the state of things. If it's making you happy, then there's nothing wrong with the state you're in. We got people that shout down the state, and they demand justice. Justice as fairness or truth as confused as the next politician who tries not to lie in the